Ad alta voce. Piero Baldini legge Il piacere di Gabriele D'Annunzio. Maria Ferrés era sempre rimasta fedele all'abitudine giovenile di notar quotidianamente in un suo giornale intimo i pensieri, le gioie, le tristezze, i sogni, le agitazioni, le aspirazioni, i rimpianti, le speranze, tutte le vicende della sua vita interiore, tutti gli episodi della sua vita esterna, componendo quasi un itinerario dell'anima, costretta dalle circostanze a ripiegarsi di continuo su se medesima, sempre chiusa nella sua purità come in una torre d'avorio, incorruttibile, inaccessibile, ella provava un sollievo e un conforto in quella specie di confessione quotidiana, affidata alla pagina bianca di un libro segretissimo. E tutte le pagine splendevano di una comune luce, ossia di verità. 15 settembre 1886. Schifanoia. Come mi sento stanca. Il viaggio mi ha un poco affaticata e quest'aria nuova del mare e della campagna m'ha un poco stordita. Ho bisogno di riposo. E già mi par di pregustare la bontà del sonno e la dolcezza del risveglio di domani. Mi sveglierò in una casa amica, nella cordiale ospitalità di Francesca, e in questa schifanoia che ha rose così belle e cipressi così grandi. E mi sveglierò avendo dinanzi a me qualche settimana di pace, 20 giorni d'esistenza spirituale, forse più. Sono molto riconoscente a Francesca dell'invito. Rivedendola ho riveduto una sorella. Quante mutazioni in me e quanto profonde dai belli anni fiorentini. 16 settembre. Pomeriggio delizioso. Passato quasi tutto a conversare con Francesca, che mi ha fatto leggere un sonetto del conte Sperelli, scritto su pergamena. Una inezia molto fine. Questo Sperelli è uno spirito eletto ed intenso. Egli è convalescente di una ferita mortale avuta in un duello, a Roma, nello scorso maggio. Serata deliziosa di conversazione intima, di musica intima, dopo il pranzo. Io forse ho parlato troppo, o perlomeno troppo caldamente, ma Francesca mi ascoltava e mi secondava, e il conte Sperelli anche. Uno dei più alti piaceri nella conversazione non volgare, appunto, è sentire che uno stesso grado di calore anima tutte le intelligenze presenti. Allora soltanto le parole prendono il suono della sincerità e danno a chi le proferisce, a chi le ode, il supremo diletto. Il cugino di Francesca è in musica un conoscitore raffinato. Ama molto i maestri settecenteschi, e in specie fra i compositori per clavicembalo Domenico Scarlatti, ma il suo più ardente amore è Sebastiano Bach. Lo Chopin gli piace poco, il Beethoven gli penetra troppo addentro e lo turba troppo. Nella musica sacra non trova da paragonare al Bach altri che il Mozart. Nell'ascoltarmi aveva una strana espressione, come di stupore, e qualche volta d'ansietà. Io mi rivolgevo quasi sempre a Francesca con gli occhi, eppure sentivo lo sguardo di lui fisso su di me, con un'insistenza che mi dava fastidio, ma non mi offendeva. 17 settembre. Stamani è partito Manuel. Siamo stati ad accompagnarlo fino alla stazione di Rovigliano. Verso il 10 di ottobre egli tornerà a prendermi e andremo a Siena da mia madre. 20 settembre. Oggi, dopo la colazione, Andrea Sperelli ha fatto a me e a Francesca l'invito di andare a vedere nelle sue stanze i disegni che gli giunsero ieri da Roma. Si può dire che tutta un'arte sia passata oggi sotto i nostri occhi. Tutta un'arte studiata e analizzata dalla matita di un disegnatore. Ho avuto uno dei più intensi godimenti della mia vita. Questi disegni sono di mano dello Sperelli. Sono i suoi studi, i suoi schizzi, i suoi appunti, i suoi ricordi presi qua e là in tutte le gallerie d'Europa. Sono, dirò così, il suo breviario. Un meraviglioso breviario, nel quale ogni antico maestro ha la sua pagina suprema. 22 settembre. Egli mi ha donato un suo libro di poesia, La favola d'Ermafrodito, il 21° dei 25 soli esemplari, tirato su pergamena, con due prove del frontispizio avanti lettera. È una singolare opera dove si chiude un senso misterioso e profondo. Nessuna musica mi ha inebriata come questo poema. Certi versi mi perseguitano senza tregua e mi perseguiteranno per lunghissimo tempo, forse. Tanto sono intensi. Settembre. Quando parliamo insieme, talvolta io sento che la sua voce è come l'eco dell'anima mia. Accade talvolta che io mi senta spingere da un subitaneo fascino, da un'attrazione cieca, da una violenza irragionevole verso una frase, verso una parola che potrebbe rivelare la mia debolezza. Mi salvo per prodigio e viene allora un intervallo di silenzio, nel quale io sono agitata da un terribile tremito interiore. Se riprendo a parlare, io dico una cosa frivola e insignificante con un tono leggero, ma mi pare che una fiamma mi corra sotto la pelle del viso, quasi ch'io sia per arrossire. Se egli cogliesse quell'attimo per guardarmi risolutamente negli occhi, sarei perduta. La notte è minacciosa. Un vento caldo e umido soffia nel giardino e il fremito cupo si prolunga nell'oscurità, poi cade, poi ricomincia, più forte. Le vette dei cipressi oscillano sotto un cielo quasi nero, dove le stelle appaiono, semi spente. 24 settembre. Io non so prendere una risoluzione, non so fare un proposito. Io mi abbandono un poco a questo nuovissimo sentimento, chiudendo gli occhi sul pericolo lontano, chiudendo gli orecchi alle ammonizioni savie della coscienza, con il trepidante ardire di chi, per cogliere le violette, s'avventura sull'orlo di un abisso, in fondo a cui rugge un fiume vorace. Egli non saprà nulla dalla mia bocca, io non saprò nulla dalla sua. Le anime saliranno insieme un breve tratto, su per le colline dell'ideale, beveranno qualche sorso alle fonti perenni, quindi ciascuna riprenderà la sua via, con maggior confidenza, con minor sete. 25 settembre. Mio Dio, mio Dio! Quando egli mi ha chiamata con quella voce, con quel tremito, io ho creduto che il cuore mi si fosse disciolto nel petto e che io fossi per venir meno. Voi non saprete mai, egli ha detto, non saprete mai fino a qual punto la mia anima è vostra. Eravamo nel viale delle fontane. Io ascoltavo le acque. Non ho visto più nulla. Non ho udito più nulla. Mi è parso che tutte le cose si allontanassero e che il suolo si affondasse e che si dileguasse con loro la mia vita. 26 settembre. È vero? Non è un inganno del mio spirito fuorviato? Ma perché l'ora di ieri mi pare così lontana, così irreale? Egli parlò di nuovo a lungo, standomi vicino mentre io camminavo sotto gli alberi, trasognata. Sotto quali alberi? Era come se io camminassi nelle vie segrete dell'anima mia, tra i fiori nati dall'anima mia, ascoltando le parole d'uno spirito invisibile che un tempo si fosse nutrito dell'anima mia. Odo ancora le parole soavi e tremende. Egli diceva: «Io rinunzierei a tutte le promesse della vita per vivere in una piccola parte del vostro cuore». Diceva: «Fuor del mondo, il vostro essere, per sempre, fino alla morte». Diceva: «La pietà che mi venisse da voi mi sarebbe più cara della passione di qualunque altra. La sola presenza vostra visibile bastava a darmi l'ebbrezza, e io la sentivo fluire nelle mie vene come un sangue e invadere il mio spirito come un sentimento sovrumano». Settembre. Quando, sul limitare del bosco, egli colse questo fiore e me lo offerse, non lo chiamai vita della mia vita? Quando ripassammo per il viale delle fontane, dinanzi a quella fontana dove egli prima aveva parlato, non lo chiamai vita della mia vita? Quando tolse la ghirlanda dall'erma e la rese a mia figlia, non mi fece intendere che la donna innalzata nei versi era già decaduta e che io sola, ero la sua speranza? Ed io non lo chiamai vita della mia vita. 28 settembre. Com'è stato lungo a venire il raccoglimento. E in tante ore dopo quell'ora ho lottato, ho penato per rientrare nella mia vera coscienza, per vedere le cose nella loro vera luce, per giudicare l'accaduto con fermo e calmo giudizio, per risolvere, per decidere, per riconoscere il dovere. Io sfuggivo a me stessa. La mente si smarriva, la volontà si ripiegava, ogni sforzo era vano. Quasi per un istinto evitavo di rimanere sola con lui. Mi tenevo sempre vicina a Francesca e a mia figlia, o rimanevo qui nella stanza come in un rifugio. Quando i miei occhi si incontravano con i suoi, mi pareva di leggere nei suoi una profonda e supplichevole tristezza. Non sa egli quanto io l'ami? Non lo sa, non lo saprà mai. Così voglio, debbo, così, coraggio. 29 settembre. Perché ha parlato? Perché ha voluto rompere l'incanto del silenzio, ove l'anima mia si cullava senza quasi rimorso e senza quasi paura? Perché ha voluto strappare i veli vaghi dell'incertezza e mettermi in cospetto del suo amore svelato? Ormai non posso più indugiare, non posso più illudermi, né concedermi una mollezza, né abbandonarmi a un languore. Il pericolo è là, certo, aperto, manifesto, e m'attira con la vertigine come un abisso. Un attimo di languore, di mollezza, e io son perduta. Notte, io temo di rimanere sola con lui, d'aver con lui un colloquio grave. La mia vita qui è ridotta a una continuazione di piccole astuzie, di piccoli ripieghi, di piccoli pretesti per evitare la sua compagnia. L'artificio è indegno di me. O voglio assolutamente rinunziare a questo amore, ed egli udrà la mia parola triste ma ferma, o voglio accettarlo nella sua purità, ed egli avrà il mio consenso spirituale. Ora io mi domando: che voglio? Quale scelgo delle due vie? Rinunziare? Accettare? Mio Dio, mio Dio, rispondete voi per me, illuminatemi voi. Rinunziare è ormai come strappar con le mie unghie una parte viva del mio cuore. L'angoscia sarà suprema, lo spasimo passerà i limiti d'ogni sofferenza, ma l'eroismo, per la grazia di Dio, verrà coronato dalla rassegnazione, verrà premiato dalla divina dolcezza che segue ogni forte elevazione morale, ogni trionfo dell'anima sulla paura di soffrire. Rinunzierò, Mia figlia manterrà il possesso di tutto, tutto il mio essere, di tutta, tutta la mia vita. Questo è il dovere. Ara compianti, anima dolorosa, per mietere con canti d'allegrezza. 30 settembre. Scrivendo queste pagine mi sento un poco più calma e mi par che il cuore si alleggerisca come dopo una confessione. Oh, se io potessi confessarmi, se io potessi chiedere consiglio e aiuto al mio vecchio amico, al mio vecchio consolatore, mi comprenderà egli ancora? Comprenderà le oscure angosce della donna, allo stesso modo che comprendeva le malinconie della fanciulla, indefinite e fugaci. Notte. Invano, invano. Nessuna cosa mi calma. Nessuna cosa mi dà un'ora, un minuto, un attimo di oblio. Nessuna cosa mai mi guarirà. Nessun sogno della mia mente cancellerà il sogno del mio cuore. Invano. La mia angoscia è mortale. Io sento che il mio male è incurabile. Il cuore mi duole come se proprio me l'avessero stretto, me l'avessero premuto, me l'avessero guasto per sempre. Il dolore morale è così intenso che si cangia in dolore fisico, in uno spasimo atroce, insostenibile. Io sono esaltata, lo so, io sono in preda a una specie di follia e non posso vincermi, non posso contenermi, non posso riprendere la mia ragione, non posso, non posso. Questo è dunque l'amore. Egli è partito stamani a cavallo con un servo, senza che io l'abbia veduto. La mia mattina è passata quasi tutta nella cappella. Per l'ora della colazione egli non è ritornato. La sua assenza mi faceva soffrire, così ch'io era stupita dell'acutezza di quel soffrire. Quando ho riudita la sua voce, io era sulla prima terrazza. Egli parlava con Francesca sul vestibolo. Francesca si è affacciata chiamandomi dall'alto. Risalendo la scala sentivo che le ginocchia mi si piegavano. Salutandomi egli mi ha tesa la mano e deve aver notato il tremito della mia, perché ho visto qualche cosa passargli nello sguardo, rapidamente. Ci siamo seduti sulle lunghe sedie di paglia nel vestibolo, rivolti al mare. Egli ha detto di essere molto stanco e si è messo a fumare raccontando la sua cavalcata. Era giunto sino a Vicomile, dove aveva fatto una sosta. Vicomile, ha detto, possiede 3 meraviglie: una pineta, una torre e un ostensorio del 400. Ho promesso al canonico che sarei tornato domenica. Andremo, è vero, Francesca? Bisogna che Donna Maria conosca Vicomile. Oh, il mio nome sulla sua bocca. Se ci fosse un modo, potrei riprodurre esattamente l'attitudine, l'apertura delle sue labbra nel proferire ciascuna sillaba delle due parole. Donna Maria. Ma non mai potrei esprimere la mia sensazione. Non potrei mai ridire tutto ciò che di sconosciuto, di inopinato, di insospettato si va risvegliando nel mio essere alla presenza di quell'uomo. Siamo rimasti là, seduti, fino all'ora del pranzo. Francesca pareva contro il suo solito, un poco malinconica. A un certo punto il silenzio è caduto su noi gravemente, ma tra lui e me è incominciato un di quei colloqui di silenzio, ove l'anima esala l'ineffabile e intende il murmure dei pensieri. Egli mi diceva cose che mi facevano languir di dolcezza sopra il cuscino, cose che la sua bocca non potrà mai ripetermi e il mio orecchio non potrà mai udire. Dinanzi, i cipressi immobili, leggeri alla vista quasi fossero immersi in un etere sublimante, accesi dal sole, parevano portare una fiamma alla sommità, come i morti vivi. Il mare aveva il color verde di una foglia di aloe e qua e là il color mavì di una turchina liquefatta. E la concordia dei profumi languiditi dell'autunno era come lo spirito e il sentimento di quello spettacolo pomeridiano. Oh morte serena di settembre, anche questo mese è finito, è perduto, è caduto nell'abisso. Addio. 1° ottobre. I miei occhi vedono in lui quel che prima non vedevano. Quando egli parla, io guardo la sua bocca e l'attitudine e il colore delle labbra mi occupano più che il suono e il significato delle parole. 2 ottobre. Oggi è sabato. Oggi è l'ottavo giorno dal giorno indimenticabile. 25 settembre 1886.